finito. Non sento, che cosa hai detto? Che non bisogna smettere di combattere se l'incontro non è finito. Come? Mi ha sentito, Capone. Ah, vattene, non sei niente, solo chiacchiere e distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere e distintivo, solo chiacchiere e distintivo. Sei solo chiacchiere e distintivo.